intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Ai primi del Novecento, quando si scoprirono i raggi X, centinaia di ospedali, cliniche private, studi medici e ciarlatani di varia natura li usarono per depilare soprattutto le gambe delle donne, neanche troppo pelosi in genere. Vennero fuori dei disastri micidiali e la legge li proibì. Nessuno mette in dubbio però l'enorme utilità dei raggi X in medicina. Le macchine che oggi e soprattutto domani sapranno apprendere capacità di analisi di una certa realtà, assumendo man mano dati su questa realtà, poi saranno utilizzate da noi per avere indicazioni su come prendere decisioni. Questo è uno dei tanti esempi. Ci sono già algoritmi applicati anche alle indagini giudiziarie, se non sbaglio. Bene, ma se poi la realtà cambia e le macchine restano le stesse, che cosa si fa? Come si può garantire con delle leggi che vi sia un controllo? Tante cose apprese in un certo periodo, successivamente si può capire che non si potevano più fare. Amedeo Santosuozzo, benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Il giudice Santosuozzo fa il giudice al Tribunale di Milano, ma dirige anche presso l'Università di Pavia lo European Center for Law, Science and New Technologies, che è appunto un centro che si occupa di rapporti fra tecnologie, nuove tecnologie e giurisdizione. Come siete messi voi giuristi, Amedeo Santosuozzo, con questo genere di problemi? Il quadro è evidentemente un quadro in movimento veloce, tanto quanto è veloce l'evoluzione della tecnologia, e ci si confronta non solamente tra giuristi, ma anche tra giuristi, tecnici, ingegneri e via dicendo. La prospettiva, diciamo, interessante, è più all'altezza dei tempi che si va delineando anche a livello europeo, è quella di evitare i compartimenti stagni. Per cui diciamo che c'è una prospettiva di un'economia europea basata sui dati, European Data Economy, all'interno della quale si collocano sia i robot, che sono anche i robot quelli meccanici tradizionali, ma che via via sono sempre più integrati di componenti di intelligenza artificiale e quindi diventano sistemi in qualche modo autonomi e quindi sistemi con capacità cognitiva. Dire che un sistema ha capacità cognitiva significa che interagisce con l'ambiente nel quale si trova e interagendo accumula una grande quantità di dati, per cui poi si arriva anche al problema della gestione, dello sfruttamento, nel senso di utilizzazione di tutti questi dati raccolti. Sì. E questo vale un po' in tutte le attività, compresa per esempio la digital industry, l'industria digitale, che non è solamente l'industria manifatturiera, ma è tutta l'attività di impresa che a questo punto è permeata da queste cose. E infatti l'esempio da cui potremmo partire fra i tanti è questo, cioè abbiamo delle macchine che apprendono che cosa? Dati su una certa realtà, e dopodiché, quando li hanno appresi, questi dati servono e gli algoritmi, queste macchine sono utilizzate per interagire con questa realtà, e se non sbaglio ci sono già anche delle prime cose per quanto riguarda indagini di tipo giuridico. Il problema qual è? Che se poi questa realtà cambia, cioè muta, bisogna che ci sia la garanzia di un aggiornamento di questo machine learning. Come noi umani si dice, ormai siamo entrati in un'era in cui bisogna avere formazione permanente, perché se non c'è questo aggiornamento ed è controllato, si continua ad agire con vecchi dati su una realtà che è cambiata. Sì, questa è una cosa assai interessante, un problema che si pone un po' in tutti i campi. C'è stato un caso recentemente negli Stati Uniti in cui il giudice, per applicare l'aumento di pena corrispondente al pericolo di ripetizione dello stesso tipo di reato, ha aggiunto un certo periodo di tempo di detenzione in carcere, e a fronte della richiesta di motivazione di questa cosa ha risposto, ma l'ha detto il software, e però il difensore dice: vabbè, ma io vorrei sapere il software come l'ha calcolato, perché in relazione a come ha calcolato il rischio di reiterazione del reato, come dicono i giuristi, io mi voglio difendere difendere, voglio contestare. Interpellata la ditta fornitrice di questo software, ha detto: ma io non ci penso neanche lontanamente di dirvi come è costituita la base dati del mio sistema che io vendo alle corti, perché questo è il segreto industriale, io vivo di questo, no? È il mio asset principale. E la cosa ha suscitato grande scandalo, articoli sul New York Times e altro. Andando a vedere meglio la cosa, in realtà questa ditta aveva fatto un lavoro assai interessante e che andava avanti da, se non ricordo male, una ventina d'anni. Aveva raccolto una gran quantità di dati su cose che nell'ambiente sono riconosciute come cause di maggiore frequenza di commissione di reati, tipo appartenere a una famiglia dove c'è alcolismo, prostituzione o altre, diciamo, forme di grossi problemi, insomma. Grossi problemi anche esistenziali, diciamo così, eccetera. Hanno collegato queste storie a un determinato numero ampio di detenuti, li hanno seguiti nel tempo, cioè seguiti nel senso di verificare poi se e come effettivamente avevano commesso nuovamente reati dello stesso genere, e sulla base di questo patrimonio di esperienza erano in grado di fornire delle, diciamo così, molto tra virgolette, previsioni. Ecco, allora la cosa è da un lato da drammatizzare, secondo me, perché normalmente quello che accade nelle aule di giustizia in tutto il mondo è che il giudice, quando deve fare questo tipo di valutazione, lo fa sulla base della sua esperienza. E la sua esperienza è fatta di certi circuiti che sono nel suo cervello, che hanno accumulato delle memorie che possono essere giuste, possono essere sbagliate, possono essere condizionate da pregiudizi, possono essere condizionate dai libri che il giudice ha nella biblioteca del suo studio, e quindi diciamo che anche quelle sono tecnologie, tecnologia il libro nella biblioteca, tecnologia la memoria del giudice, per cui non c'è da stupirsi che si utilizzano queste cose. Però per altro verso ammettiamo che intanto e sono state accumulate esperienze sul rapporto tra alcolismo e pedofilia, la dico così totalmente, per fare un esempio, ipotetica, eccetera, e poi per 20 anni sono state accumulate queste esperienze, poi è venuto fuori uno studio che dice che questa associazione è totalmente infondata, che facciamo, andiamo avanti continuando a usare quel tipo di esperienza? Ecco, allora qui torniamo alla sua domanda di prima. Questi sistemi sono utilizzati, verranno utilizzati sempre di più, ma è necessario che ci sia una verifica e accreditamento di qualità del prodotto e del meccanismo di formazione dell'informazione sulla base della quale viene fornito il prodotto, che deve essere un meccanismo riconosciuto pubblicamente. Con una sua certificazione, d'altronde una sorta di certificazione, ora la diciamo così in modo molto... Non sappiamo ancora come, certo. Non semplicistico, però così come in un sito web noi possiamo leggere in quelli più seri ultimo aggiornamento, c'è la data dell'aggiornamento e non si capisce perché in un sistema che può avere conseguenze anche di tipo sociale e personale complicato non ci possa essere una banale informazione di questo genere, ma stiamo parlando proprio di cose veramente minime. Naturalmente poi è possibile creare degli accorgimenti che non siano delle gabbie metalliche, però che nello stesso tempo garantiscano un po' tutti. Ecco, quello che si può dire è che sicuramente oggi come oggi, a livello anche europeo, ci si sta ponendo il problema di aggiornare due pezzi di legislazione che sono molto importanti in questo campo. Uno è la direttiva macchine, quella che regola tutte le procedure sulla base delle quali una macchina può essere messa sul mercato avendo una certificazione appropriata di sicurezza della macchina stessa, cioè che non produca danno. L'altra cosa, e quindi quando diciamo macchine intendiamo macchine in senso anche ampio, no? Non solamente la macchina in senso fisico, ma anche la macchina con una certa dotazione di intelligenza artificiale o di capacità di calcolo. L'altra cosa è la direttiva, quella che è alla base della legislazione a tutela del consumatore, che a questo punto deve fare i conti con una grossa difficoltà. Cioè, per il consumatore diventa ogni giorno più difficile riuscire a dimostrare che il prodotto era difettoso. Perché quando parliamo di un prodotto ad alta intensità tecnologica, che è frutto dell'inserzione e della composizione di elementi che vengono da diversi sottoproduttori, la questione può essere molto delicata, può essere molto difficile per il consumatore. Allora che cosa mi dite? Io dico questo, non spaventiamoci, sono problemi inevitabili se si ha a che fare con grandi cambiamenti. Basta usare un po' di testa, no? Buona intelligenza a tutti e tutte.